Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La cartiera Burgo di Tolmezzo potrebbe non riaprire in settembre. Stessa incertezza sullo stabilimento di Duino. Per la cartiera di Ovaro la proprietà ha già accordato la cassa integrazione e analoga richiesta era arrivata prima di Ferragosto per la Ermolli di Moggio Udinese. È l'effetto del prezzo alle stelle del gas. Le magliette con la scritta Joe Love, il verde delle bandane perché era il colore preferito da Giovanni. Commovente e doloroso l'addio al ragazzo di 15 anni travolto e ucciso da un'automobile domenica scorsa a Porcia. Ieri i funerali a Pordenone. Il settore del commercio chiede interventi urgenti al governo e lancia l'iniziativa Bollette in vetrina. La fiammata dei prezzi si ripercuote anche sulle spese per libri di testo in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Caffè amaro, il caro energia fa aumentare il prezzo della tazzina. Nel GR il caso di un'azienda triestina che ha ricevuto bollette da capogiro. A San Daniele prende il via la festa del prosciutto, squillo di avvio affidato alla banda dell'aeronautica militare, quindi lo spettacolo di cucina con lo chef Kevin Gaddi. 15 gli stand enogastronomici aperti lungo le vie del centro storico. Sport, l'Udinese scende in campo a Monza. Obiettivo, dice Mister Sottil, è portare punti a casa. In campo non ci sarà Perez, per il quale il giudice sportivo d'appello ha confermato i due turni di squalifica. Beppe Saronni, storica star del ciclismo, protagonista a San Daniele per raccontare la sua cosiddetta fucilata, la vittoria al campionato mondiale di Goodwood di 40 anni fa. Sarà anche inaugurata una mostra dedicata a Eddie Merckx. È venerdì 26 agosto 2022, sono le 7:20 minuti. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo, il cielo è in prevalenza sereno sulla regione. Ecco le temperature registrate alle 7. A Trieste 24 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 24 gradi e mezzo. A Gorizia 21,5, a Udine 20,5, a Pordenone 21 gradi, a Tolmezzo 19, a Tarvisio 15, a Forni di Sopra 15, Sappada 13 gradi, Piancavallo 12 e mezzo, sul Monte Zoncolan 12 e mezzo, sul Monte Lussari 11 e mezzo, a Lignano 24 gradi e 5, a Grado 23,5, la temperatura del mare è di 26 gradi e 5. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, tempo abbastanza stabile al mattino, con Borino sulla costa. Dal pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi e locali temporali. Il costo del gas diventa insostenibile e all'approssimarsi della ripresa produttiva i nodi vengono al pettine. Fra gli impianti che consumano più energia, le cartiere. La Burgo fa sapere che a queste condizioni è pressoché impossibile riaprire lo stabilimento di Tolmezzo a settembre e l'ombra dell'incertezza si stende anche sull'impianto di Duino. 4 delle principali cartiere attive in regione stanno ipotizzando il ricorso alla cassa integrazione, richiesta già partita dallo stabilimento di Ovaro. Con il prezzo del gas a questi livelli non è pensabile continuare a produrre e già da settembre potrebbero scattare delle fermate. Terminato il periodo di manutenzione, la cartiera di Tolmezzo del gruppo Veneto Burgo potrebbe presto interrompere le attività a causa del caro energia. A dirlo è un portavoce dell'azienda. Una notizia già nell'aria da qualche settimana, vista la situazione internazionale, non solo da noi ma in tutti i gruppi cartai, dice Luca Mian, segretario regionale del sindacato Wilcom. Già previsti incontri di varia natura con l'azienda, inclusi ragionamenti sull'aumento del gas che ha toccato i 320 euro al megawattora. Quest'anno i circa 300 dipendenti alla cartiera di Tolmezzo non si erano mai fermati a causa dei prezzi dell'energia. Mian ipotizza l'uso della cassa integrazione con la nuova causale dedicata alle imprese energivore. È in questo periodo che si concordano i nuovi contratti per il prossimo anno termico, che inizia il 1 ottobre. La durata di una ipotetica chiusura dipenderà dalle oscillazioni del mercato. La FIM CISL indica che l'incertezza riguarda anche l'impianto di Duino. Alla cartiera di Ovaro, parte del gruppo RDM, la direzione ha accordato coi sindacati l'apertura della cassa integrazione, una garanzia voluta contro possibili stop improvvisi della produzione dovuti a mancanza di gas o di ordini. Lunedì è prevista comunque la riattivazione degli impianti dopo la manutenzione annuale. Qui il gas è diventata la voce principale del conto economico e la bolletta è più che triplicata rispetto all'anno scorso. Si lavora alla costruzione di una nuova centrale termoelettrica, investimento da 9 milioni, che dovrebbe garantire dall'anno prossimo il 15% in più di efficienza. Quanto all'altra grande cartiera in regione, la Ermolli di Moggio Udinese, l'attivazione della cassa integrazione è stata richiesta prima di Ferragosto. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quella di ieri è stata una giornata di dolore e di lacrime a Pordenone, dove sono state celebrate le esequie di Giovanni Zannier, il ragazzo di 15 anni travolto e ucciso da un'auto a Porcia domenica scorsa. Alla cerimonia anche il comandante della base USAF di Aviano, a cui appartiene la responsabile dell'investimento. 15 palloncini rossi a forma di cuore, uno per ogni anno di età, sono stati fatti volare in cielo al termine della cerimonia funebre di Giovanni Zannier, il quindicenne travolto e ucciso dalla soldatessa statunitense la notte tra sabato e domenica. Uno dei palloncini, il più grande, portava scritto «Mamma Barbara, papà Sergio». In una chiesa gremita da giovani, il feretro di Giovanni alle 16 ha fatto il suo ingresso, accolto da due ali di amici posizionati ai lati dell'altare, tutti con la maglietta del ragazzo e sfoggiando una bandana verde, il colore preferito da Giovanni. Adam, un amico. È sempre stato un ragazzo con un grande cuore e anche se ci sono stati tanti litigi nel gruppo, Giovanni ha sempre cercato di tenere tutti stretti. Di Giovanni ci rimane tutto il gruppo, tutte le cose, perché comunque abbiamo lo stesso ricordo di lui e per noi lui è comunque qua vicino a noi a proteggerci dall'alto. È sempre stato un angelo e volerà in alto. Riccardo. Giovanni era un ragazzo puro a cui piaceva stare con gli amici, andare in giro, divertirsi. Non aveva rancore verso nessuno e non odiava nessuno. Voleva bene a tutti ed era sempre educato e gentile verso tutti, che sia un bambino, un giovane o un vecchio. E per questo ci manca tanto. Una cerimonia intensa e partecipata alla quale hanno preso parte anche il comandante della base USAF di Aviano e dell'aeroporto militare, oltre ai sindaci di Pordenone e Porcia. Una chiesa che ha fatto fatica a contenere le persone e i giornalisti, compreso due emittenti televisive statunitensi. Intanto proseguono le indagini. La procura di Pordenone ha nominato un consulente tecnico per la ricostruzione cinematica del sinistro. Pordenone, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo alle difficoltà dell'economia, difficoltà dovute all'aumento esponenziale dei costi di luce e gas e dunque a bollette stratosferiche, tanto che Confcommercio lancia l'iniziativa Bollette in vetrina. Di fronte a una fase di rinnovata emergenza, dice infatti il presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo, chiediamo alle imprese di esporre in vetrina gli ultimi bollettini di luce e gas e quelli relativi allo stesso periodo di un anno fa. Sui bilanci familiari in questo periodo pesano le spese scolastiche, dai libri di testo alla cancelleria, e anche qui l'inflazione ha messo il segno più ai prezzi. Qualche rincaro in più sui libri di testo si vede, un po' meno per zaini e materiale vario. L'aumento dei prezzi per il nuovo anno scolastico c'è, ma è relativamente contenuto, spiegano dalle cartolibrerie. Alessandro Postogna. Medie superiori, sì, credo che qualche ritocchino ci sia stato, però anche qua entro un limite ragionevole, perché non è che ho visto passare una fornitura testi da 100 a 150 euro, forse i 5-10 euro in più ci sono. Gli importi variano da classe a classe e da scuola a scuola. Si può arrivare anche a qualche centinaio di euro per i libri del liceo. L'usato è una soluzione sempre più difficile da praticare. Con tutti i cambi che ci sono, gli aggiornamenti sui testi, quindi la nuova versione, la nuova edizione, credo che sia diventato un mercato più complicato rispetto a quello che era magari quando noi eravamo ragazzi. Fatto sta che nonostante la digitalizzazione rimane abbondante la quantità di libri di carta da procurarsi ogni anno e da portare in spalla. Le famiglie si dividono tra quelle che hanno già completato gli acquisti e quelle che invece attendono ancora. Aspettiamo ancora un attimo, ci godiamo questi ultimi giorni e poi affrontiamo le spese e tutti i pensieri che ne verranno. Libri di testo già fatto, lo sappiamo, però non essendo il primo anno ammortizziamo. Come primo anno ovviamente le spese devono essere fatte, cerchiamo di contenere laddove possibile. Per i cartolibrai l'anno promette bene, è il primo che non prevede DAD da quando il Covid è entrato nella nostra vita. Didattica a distanza che ha ridotto le vendite di materiale diverso dai libri, materiale su cui i margini sono nettamente maggiori rispetto ai testi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. dai rincari per l'istruzione a quelli dell'agroalimentare. A farne le spese sarà anche la tazzina di caffè, su cui prima o poi si scaricheranno gli aumenti piombati sulle aziende. Ecco la vicenda di un'impresa triestina che decaffeinizza i chicchi e produce caffeina naturale. Dal chicco alla tazzina, i rincari dell'energia rischiano di rendere amarissima la bevanda nazional popolare per eccellenza. Alla Demus S.p.A., azienda triestina che da 60 anni opera nel settore della decaffeinizzazione del caffè e produzione di caffeina naturale, le bollette hanno raggiunto cifre da capogiro. Sentiamo il direttore di stabilimento della Demus S.p.A., Stefano Traunini. Noi ci occupiamo di decaffeinizzazione del caffè. Il processo, come tutti i processi di separazione, è un processo particolarmente energivoro. Abbiamo dei grossi consumi di energia elettrica e metano che impattavano storicamente attorno al 10% del fatturato. Oggi questo impatto è cresciuto in modo abnorme. Al momento non abbiamo ancora rilevato delle flessioni nei volumi, ce l'aspettiamo e riteniamo ci possano essere nel prossimissimo futuro, anche perché siamo costretti in continuazione a rivedere i prezzi del servizio di decaffeinizzazione che sono fuori controllo e ci costringono spesso a lavorare in perdita. Nel luglio 2019 avevamo speso circa 26.000 euro, quest'anno luglio 2022 a parità di consumi siamo attorno ai 159.000 euro. Con un incremento? Del 600%. Il costo dell'energia è inaggirabile e allora si ricorre a soluzioni alternative. Abbiamo installato un impianto fotovoltaico da 154 kW che contribuirà però per solo il 10-12% al nostro fabbisogno di energia elettrica, ma comunque un aiuto. Al momento stiamo valutando l'utilizzo di eventuali combustibili alternativi. Ma è inevitabile comunque riversare una parte dei rincari a valle sul consumatore finale e tra energia alle stelle, trasporti più difficili e inflazione galoppante, il prossimo inverno anche la tazzina di caffè al bar ci costerà un po' più cara. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il vice ministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili Alessandro Morelli sarà alle 15 a Trieste per visitare il porto, accompagnato dai responsabili di Capitaneria di Porto e Autorità Portuale. A Udine, il quartiere di edilizia pubblica residenziale Aurora, sorto fra gli anni 70 e 80, da un po' di tempo è protagonista di una rinascita che è testimoniata sia dall'allestimento di una pista ciclabile, sia di quelle di aree verdi dopo gli anni costellati dalle numerose problematiche sociali che ne erano diventate simbolo. Se ne parlerà a Udine, alla chiesa di Gesù Buonpastore in via Riccardo di Giusto alle 18.30. Organizzatrice dell'iniziativa l'Associazione Itineraria, di cui è presidente Maria Pia Frattolin, a cui abbiamo chiesto una breve sintesi della storia di questo quartiere. È una lunga storia quella delle case di edilizia popolare che arriva a un certo punto a questo progetto di edificazione in un'area rurale nei pressi di Udine, che però diventa un'area solo di abitazioni. L'errore primitivo è stato questo. Certo, dobbiamo dire che le cose non possono partire sempre perfette, c'è del tempo, ma lì l'errore fondamentale è stato che sono state create delle abitazioni e non i servizi. Praticamente i ragazzi non avevano dove riunirsi, c'era un unico bar, avevano la strada. E questo poi a cascata si arriva a quello che è stato il disagio sociale sofferto da tutta la comunità. Una comunità che non è riuscita a integrarsi con la città di Udine subito perché c'erano i blocchi della ferrovia, i blocchi delle caserme, e questo non ha favorito un'integrazione. Avendo i ragazzi poi solo la strada, questo ha generato dei problemi sociali, anche di scollamento, anche gravi, perché negli anni 80 poi è nato il fenomeno della droga in tutta Italia e ovviamente anche lì, anche perché la struttura architettonica di questi caseggiati, che nella mente degli architetti era fin di bene, però purtroppo essendo più verticale che orizzontale non favoriva l'integrazione neanche tra la comunità. La rassegna estiva Vicino Lontano Monte affronterà oggi il tema del ruolo delle aree interne in un mondo che sta velocemente cambiando. Quanto può contare riaffermare i diritti di cittadinanza di chi vive e lavora nelle aree periferiche italiane? Ne parleranno l'economista Fabrizio Barca e l'esperto in pianificazione e controllo strategico degli enti locali, oltre che docente all'Università di Padova, Luciano Gallo. Appuntamento a Paluzza, in piazza 21-22 luglio, alle 18. Altro evento, quello con la presentazione del Suono Dentro, del fisarmonicista Paolo Forte e del regista e documentarista Giulio Squarci. Un'esplorazione musicale di luoghi speciali catturati da un occhio immaginifico. A Tolmezzo, al Cinema David, alle 20.30. Andiamo a Sabito al Tagliamento, dove il percorso di conversione di una fattoria sociale e didattica ha portato a ottenere la certificazione biologica. Eccoci qua, allora. Negli orti sociali della Volpe sotto i Gelsi, la fattoria didattica e sociale della cooperativa Il Piccolo Principe a San Vito al Tagliamento, si è scelto di coltivare in modo biologico, ora certificato. Marco Cepparo, responsabile della Volpe sotto i Gelsi per Il Piccolo Principe. Abbiamo scelto una coltivazione biologica nel rispetto, insomma, delle persone che abbiamo tra noi, che lavorano con noi, e anche un po' soprattutto per quelli che sono i principi della nostra cooperativa, la salvaguardia dell'ambiente e delle persone che abitano questo pianeta. Nella struttura immersa nel verde, a poca distanza dal fiume Tagliamento, si organizzano anche laboratori e centri estivi per i bambini. E nel garden, appena rinnovato, recuperando vecchi mobili di legno, si possono acquistare anche fiori e piante. Cosa stava facendo adesso? Stavo pulendo le foglie secche, delle foglie secche e delle verdure del negozio. Tra orto e vivaio sono impiegate 10 persone con fragilità. Consuelo Francescutto. Trovano beneficio del prendersi cura delle piante, ma anche rendere confortevole l'ambiente, perché poi c'è un via vai di persone che vengono ad acquistare, per cui vederli arrivare e comprare delle cose frutto del loro lavoro gli dà una soddisfazione enorme. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Giornata di inaugurazione per la 36esima edizione di Area di Friuli, festa del prosciutto di San Daniele, che promuove anche il territorio con itinerari turistici. L'avvio è affidato all'esibizione della banda dell'Aeronautica Militare Italiana sulla scalinata del Duomo alle 18.45. A seguire il taglio della prima fetta del prosciutto di San Daniele alle 19.30 e poi lo spettacolo culinario dello chef Kevin Gaddi in piazza 4 Novembre alle 20. Saranno aperti 15 stand enogastronomici lungo le vie del centro storico che proporranno degustazioni di prosciutto di San Daniele, ricette gourmet, abbinamenti con latticini e frutta, mentre nella terrazza a fianco alla Chiesa della Fratta sarà allestita l'enoteca dedicata ai vini del Friuli Venezia Giulia. A Godia invece questo è il primo weekend per la 46esima edizione della Sagra delle Patate, che sarà inaugurata alle 19.30 e proporrà tante iniziative, dalle camminate alle specialità gastronomiche. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. L'Udinese ha formalizzato l'acquisto di un nuovo calciatore. Si tratta dell'attaccante portoghese Vivaldo Semedo, che proviene dallo Sporting Lisbona, storica fucina di grandi campioni, fra cui Cristiano Ronaldo. Oggi i friulani affrontano in trasferta il Monza alle 18.30. Massimo rispetto per il Monza, ha detto ieri l'allenatore Sottil, ma consapevolezza che andiamo a giocarcela fino in fondo. Sulla carta sembra una partita facile con una neopromossa a 0 punti, eppure quella con il Monza potrebbe essere il classico incontro che non ti aspetti, con una compagine molto agguerrita e un tecnico molto preparato come Stroppa. L'Udinese apre il weekend del campionato con la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo per mettere in difficoltà fin dal primo minuto la formazione lombarda. Per Sottil le idee sembrano chiare su quello che sarà l'11 iniziale, anche se lascia aperte tutte le soluzioni in tutti i reparti. In difesa fuori Perez per squalifica, al suo posto potrebbe giocare Ebosele, in attacco Beto sta bene e probabilmente potrà essere disponibile fin dal primo minuto. Ma è sull'aspetto mentale della squadra che Mister Sottil intende soffermarsi. Noi dobbiamo avere un approccio devastante, un approccio di grande carica agonistica, di grande umiltà, consapevoli sicuramente che possiamo andarcela a giocare. Una settimana corta che ha visto comunque i giocatori bianconeri impegnarsi a fondo negli allenamenti. I ragazzi hanno svolto tutte le sedute con grande determinazione, con grande intensità e soprattutto vedo la voglia di trovare una grande prestazione e cominciare a ottenere un grande risultato. Quella di venerdì pomeriggio al Brianteo sarà la prima prova di tre in 9 giorni. Mercoledì arriverà il Friuli la Fiorentina e poi domenica la Roma di José Mourinho. Sono abituato a ragionare partita per partita, quindi per me l'obiettivo importante è andare a Monza a fare una grande prestazione prima di tutto. Intanto la società bianconera ha ufficializzato con un contratto triennale l'acquisto dell'attaccante portoghese Vivaldo Semedo, proveniente dallo Sporting Lisbona. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il reclamo con procedimento d'urgenza presentato dall'Udinese contro la squalifica di 2 giornate inflitta a Perez a seguito dell'incontro Udinese-Salernitana del 20 agosto scorso. Perez quindi salta la partita di oggi e quella di mercoledì in casa contro la Fiorentina. Per la pallamano, prima uscita stagionale per gli atleti della squadra triestina che in gara amichevole affronteranno il Cosina, formazione di seconda lega slovena. L'incontro sarà utile per testare lo stato di forma dei biancorossi in vista del campionato che prenderà avvio sabato 3 settembre con la trasferta di Camisano in provincia di Vicenza. Appuntamento a Trieste al Palacchiarbola alle 19. L'ex campione di ciclismo Beppe Saronni interverrà a San Daniele all'inaugurazione della mostra Eddy Merckx e Beppe Saronni. L'oro e lo sparo, che allude al 50° anniversario dell'anno d'oro del campione belga e al 40° della vittoria di Saronni al campionato mondiale di Goodwood, ricordato come la fucilata. L'allestimento, visitabile fino a lunedì, è stato organizzato per la 4ª edizione della manifestazione We Like Bike, dedicata alla narrazione del grande ciclismo e include materiale da collezioni private e musei. A San Daniele, a Palazzo de Concina, alle 18. A seguire è previsto un incontro con Saronni e il giornalista Beppe Conti, che presenteranno un libro sulla vittoria di Goodwood. A San Daniele, al cinema Splendor, alle 21. Per la cultura, gli appuntamenti di Lignano Noir, dedicati al giallista Giorgio Scerbanenko, proseguono con l'incontro della giornalista Rosa Teruzzi e dello sceneggiatore Paolo Roversi a Lignano alla biblioteca alle 21. Maurizio Galimberti, mosaici scomposti, è la mostra oggi in inaugurazione, inclusa nella 36ª edizione del Festival Friuli Venezia Giulia Fotografia 2022, in cui sono esposte opere dedicate agli ultimi 100 anni di storia e realizzate con mosaici fotografici che interpretano gli avvenimenti. Galimberti, che interverrà all'inaugurazione, ha infatti usato fotogrammi di film come la Ciociara, la Grande Guerra, Easy Rider, ma anche drammatiche foto storiche come quelle dei bambini di Auschwitz, della bomba atomica a Hiroshima, dell'omicidio del presidente Kennedy. Appuntamento a Pordenone, alla Galleria Henri Bertoia alle 18. La mostra sarà visitabile fino al 16 ottobre, da giovedì a domenica, con orario 15-19. Le foto di te da bambina ed un biglietto della madre di Londra. Sarà il duo degli psicologi a calcare il palco del nuovo evento della rassegna lignanese Notti in Arena. In scaletta i brani dell'ultimo album Trauma, uscito lo scorso aprile, di cui state ascoltando in sottofondo la canzone intitolata Pagine. Noti per i testi in cui si raccontano i conflitti tra adolescenti ed adulti e la complessità nata dalla pandemia con il suo strascico di depressione e solitudine. I due artisti, poco più che ventenni, si esprimono ricorrendo a uno stile pop rap che in breve è riuscito a scalare la vetta della classifica dei dischi più venduti. Appuntamento a Lignano Sabbia d'Oro, all'Arena Alpe Adria. Apertura e porte alle 18, inizio concerto alle 21. ...7.42, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. Il Messaggero Veneto apre sull'iniziativa di esposizione bollette in vetrina e in fotonotizia si occupa del funerale di Giovanni Zanier. Per la politica un'intervista all'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli in tema polemica sulla legge sull'aborto che viene ribadita come intoccabile, mentre per il calcio c'è un commento di Bruno Pizzo sulla partita odierna dell'Udinese. L'edizione di Udine ha in capocronaca il cronoprogramma delle 3 ciclabili cittadine in allestimento. Spazio poi alla disinfestazione avviata in seguito ai casi di febbre del Nilo emersa in due animali, di cui uno trovato in città. Dalla pagina di Tolmezzo, la lettera aperta alla regione inviata da centinaia di ex soci COPCA che ancora non hanno ricevuto rimborsi dopo il crack della cooperativa nel 2015. L'apertura del Gazzettino è invece per l'annullamento della visita del leader della Lega Matteo Salvini, già prevista per domani a Tarcento. L'edizione di Udine del Gazzettino si occupa delle fermate di trasporto pubblico, ora accessibili anche ai disabili dopo l'abbattimento delle barriere architettoniche. Da Forni di Sopra l'inaugurazione del percorso sensoriale Natura dell'Ecomuseo, che permette di conoscere tutti i segreti dei boschi. La prima pagina del Piccolo di Trieste, in apertura la piscina terapeutica, il progetto dell'opera che prenderà il posto dell'acqua marina. Sarà il comune a fissare tempi e paletti, entro fine anno l'avvio della demolizione del rudere e poi la partenza del nuovo cantiere. Tutte le vasche avranno acqua di mare. In alto però richiama l'attenzione la foto di un gruppo di volontari impegnati nello spegnimento delle fiamme e poi nella bonifica dei boschi sul Carso. Il loro racconto, i nostri 42 giorni contro il fuoco. All'interno, in economia, il piano di assunzioni di Poste Italiane in Friuli Venezia Giulia. Nel primo semestre assunti 102 dipendenti, si tratta di 72 postini e 30 sportellisti. La forza lavoro sfiora 2.600 unità. L'età media del personale scende a 49 anni. Le donne sono il 55% del totale. In cronaca, le novità sul delitto Trajković avvenuto in via Rittmeyer a Trieste fra il 7 e l'8 gennaio. Prorogate di altri 6 mesi le indagini sull'omicidio del 17enne Robert. Verifiche sul cordino usato da Kashim e sul cellulare della vittima. L'assassino non ha risposto al pubblico ministero. I titoli di cronaca sulla prima pagina dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto si occupano del trasloco del 118 al padiglione A dell'ospedale, allestito per fare spazio al pronto soccorso. Da Sacile un reportage dalle rive del Meschio, ora in aperto degrado a causa dei tanti rifiuti. Da Frisanco un resoconto del terremoto magnitudo 3.5 scala Richter di ieri mattina, di cui vi abbiamo reso conto nelle nostre passate edizioni. L'edizione di Pordenone del Gazzettino si occupa del bando di gara da 20 milioni di euro per la nuova sede dei Vigili del Fuoco, che sarà realizzata in Comina in una fetta della caserma Monti, circa 2 anni e mezzo la durata dei lavori. Altro servizio, quello sulle aggressioni verbali sempre più frequenti a scapito del personale ospedaliero, e sul progetto di un servizio di sicurezza 24 ore al giorno previsto dal direttore dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Giuseppe Tonutti. Spazio poi alle polemiche seguite alla chiusura imposta a un locale notturno del centro città a causa del rumore. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo, sanità nel titolo di apertura della prima pagina, robot e nuovi laser, l'ospedale goriziano San Giovanni di Dio diventa più tecnologico. Un consistente piano di investimenti da 4.700.000 euro, previsti rinnovo delle apparecchiature e lavori edili. Fascia alta per la fotonotizia che ritrae sdraio e ombrelloni, riaperta la spiaggia di Marina Giulia. All'interno, a pagina 19, Luca Perrino fa la cronaca dell'air show di Grado, che ha visto l'esibizione delle frecce tricolori in formazione da 9 e non da 10 jet. Più avanti, sfogliando il giornale, la curiosità. Nasce il gelato alla ribolla gialla. Lo propone il pasticcere cormonese Marco Battistutta, ispirato dalla lettura di un articolo del 1981. Raccontava del gusto Cabernet, che è da lì è partita la mia sperimentazione, racconta. Ancora a Grado, nuovo impianto fotovoltaico nel parcheggio di Sacca dei Moreri. L'opera, da quasi 1 milione, assicurerà elettricità a diversi edifici pubblici. Sarà rimessa a nuovo anche la rete di illuminazione dell'isola con le luci a LED. Gli spettacoli, si intitola Ritratto del Leone, lo spettacolo teatrale dedicato alla storia di Willie the Lion Smith, celebre pianista statunitense noto per le funamboliche esecuzioni ragtime. Le sue vicende saranno raccontate da Ida Tagliente, Giorgio Pacorig e Cosico Miorelli attraverso quadri sonori in cui le composizioni dell'artista vengono liberamente scomposte, rielaborate e intrecciate a stili diversi dal blues al ragtime fino all'elettronica, così come faceva lui in ogni melodia. L'evento, incluso nella programmazione della rassegna itinerante Palchi nei Parchi, è previsto a Flambro di Talma Sons al Mulino Braida alle 20:30. L'appuntamento sarà preceduto da una camminata alla scoperta del posto e dall'incontro Acqua di Risorgiva, Acqua di Laguna, percorsi lenti e sinuosi, organizzato dall'Ispettorato Forestale Regionale alle 19. Il pianista albanese Kostandin Tashko sarà il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna Nei suoni dei luoghi, in programma musiche di Beethoven con la sonata Appassionata, oltre a composizioni di alcuni fra i principali compositori russi del XIX e XX secolo. Tra questi Tchaikovsky, presentato con la tradizione pianistica della sua popolare suite dal balletto Lo Schiaccianoci, oltre a Stravinsky con i tre movimenti dal balletto Petrushka. A Lesse a Palazzo Gersiach alle 21. Ultimo evento per la 44esima edizione di Folkfest, manifestazione dedicata alla musica di tutte le etnie e le culture del mondo, che oggi omaggerà la musica friulana. Sul palco i Bintars, formazione attiva dal 77, con Alessandro Piva all'armonica diatonica e alla chitarra e Francesca Piva al contrabbasso e al bombardino, a Udine in Piazza Libertà alle 21. Giornata d'esordio per l'ottava edizione del Festival Blessed Sound, dedicato alla musica emergente e indipendente. Obiettivo della manifestazione: essere un canale di artisti distanti dalle rotte delle altre programmazioni e allo stesso tempo promuovere gli emergenti, quest'anno ponendo particolare attenzione anche alla questione di genere e al legame col territorio. L'apertura è affidata al gruppo napoletano degli Alma Megretta, che tornano in Friuli Venezia Giulia con il frontman storico Raiz per presentare il nuovo album di inediti Senghe, realizzato assieme al bassista e produttore friulano Paolo Baldini. A seguire l'esibizione di Ceneri, esordiente a soli 20 anni, a Blessano di Basiliano in via Pantianicco alle 19. Il grande violinista Utughi salirà sul palco dell'inaugurazione della 40esima edizione del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, accanto alla formazione dei virtuosi italiani guidati da Alberto Martini. In programma musiche di Geminiani, Vitali, Bach e Boccherini a Portogruaro, al Teatro Comunale Luigi Russolo alle 21. E sarà affidata al maestro Ferruccio Bartoletti di La Spezia l'apertura della 28esima edizione di Cororgano, festival di valorizzazione degli strumenti a Canne del Friuli Venezia Giulia. In programma improvvisazioni sul film Il Monello di Charlie Chaplin del 1921, a Trieste nella chiesa evangelico-luterana di Largo Panfili alle 21. Il Festival della Montagna Friulana Carne Armonie prosegue con l'ensemble di tromboni Slides and Friends, diretti dall'eclettico Simon Hogg. In programma musica d'eco a cori battenti in uso tra tardo medioevo e rinascimento, musica contemporanea di derivazione pop, adattamenti e trascrizioni dal patrimonio musicale colto dal 6 all'Ottocento, brani jazz, musica da film e improvvisazioni. Adam Pezzo a Malgapura alle 11. L'attore e regista comico Paolo Rossi sarà protagonista dell'incontro aperto al pubblico tra laico e profano. Sul palco la condivisione di una selezione di brani magistrali del ricco repertorio dell'artista e racconti della sua vita professionale attraverso la sua rinomata capacità di improvvisazione e coinvolgimento. A Malnisio, nell'ex centrale, alle 21. Una comunicazione che riguarda il voto per il rinnovo del Parlamento. Agcom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha richiamato tutte le emittenti alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, fissate per il prossimo 25 settembre. In chiusura uno sguardo ai programmi radiofonici della nostra sede. Alcuni minuti dopo le 11, l'appuntamento con un classico della letteratura friulana del secondo Novecento ad opera di Don Giuseppe Marchetti. Alle 11:20, un tranquillo weekend weekend da paura estate. I programmi regionali torneranno poi alle 14. L'assistenza tecnica è stata curata da Federico Comar e da Vassia Krismancic, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Questa edizione si ferma alle 7:52 minuti e 30 secondi. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione, pochi minuti dopo le 11, su questa frequenza c'è il flash e quindi l'edizione delle 12:30. L'edizione serale oggi andrà in onda alle 18:05 circa per consentire la trasmissione della radiocronaca di Monza Udinese. Potete seguire gli aggiornamenti sui nostri profili Twitter, Facebook e Telegram e sulla pagina web della redazione all'indirizzo rainews.it/tgr/fvg. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.